Capitolo 2. La ragazzina fece il lungo viaggio e giunse sana e salva a Northampton, dove le andò incontro Mrs. Norris, che così poté godere nell'intimo di essere la prima ad accoglierla e a darsi importanza nel presentarla agli altri membri della famiglia, raccomandandola alla loro bontà. A quel tempo Fanny Price aveva appena compiuto 10 anni. E benché a prima vista non si notasse nel suo aspetto granché di accattivante, perlomeno non vi era nulla in lei che potesse spiacere ai parenti. Era di piccola statura per la sua età, aveva una carnagione smorta e nessun lineamento del viso era di saliente bellezza. Timidissima e ritrosa, schiva dal mettersi in vista, aveva un modo di fare impacciato ma non volgare. Parlava con voce dolce e si esprimeva con grazia. Sir Thomas e Lady Bertram la accolsero con grande gentilezza e lo zio, vedendo quanto avesse bisogno di incoraggiamento, tentò di essere il più possibile conciliante, ma si trovò alle prese con un comportamento improntato a una sorta di restia gravità. Lady Bertram, invece, senza darsi tanto da fare e dicendo sì e no una parola per 10 che ne diceva lui, col semplice aiuto di un aperto sorriso fu subito il personaggio meno temibile dei due. I ragazzi erano tutti a casa e sostennero benissimo la loro parte durante quella prima presa di contatto. Da parte dei maschi vi fu molto buon umore e nessun imbarazzo. Avevano rispettivamente 17 e 16 anni, erano alti per la loro età e alla cuginetta sembravano uomini fatti. L'atteggiamento delle due bambine fu esitante perché erano più giovani e avevano una grandissima soggezione del padre che in quella occasione si rivolse loro con poco opportuna solennità. Ma erano troppo abituate a trovarsi in compagnia di estranei per provare più di una naturale timidezza. E la loro disinvoltura, crescendo in proporzione dell'impaccio della cugina, le mise ben presto in grado di esaminarne a fondo, con tranquilla indifferenza, il viso e il vestito. Erano davvero una famiglia di non comune bellezza, i maschi di notevole aspetto, le ragazze decisamente avvenenti, tutti e quattro più sviluppati e precoci di quanto comportasse la loro età, il che produceva una marcatissima differenza col fisico della cuginetta, differenza che risaltava anche nel modo in cui, grazie all'educazione ricevuta, si esprimevano i quattro figli di Sir Thomas. Nessuno avrebbe creduto le tre ragazzine tanto vicine per età come effettivamente erano. Fra la minore delle Bertram e Fanny correvano solo 2 anni di differenza. Giulia infatti era 12enne e Maria aveva 1 anno di più. Intanto la piccola ospite si sentiva completamente smarrita, spaventata da tutti quelli che le stavano intorno, vergognandosi di sé, piena di nostalgia per la casa appena lasciata, non aveva il coraggio di alzare lo sguardo quando parlava. Riusciva a malapena a farsi udire o a trattenere le lacrime. Durante il tragitto da Northampton a Mansfield, Mrs. Norris le aveva parlato incessantemente della buona sorte toccatale e della profonda gratitudine, della buona condotta di cui doveva dar prova, così alla coscienza della propria inadeguatezza si era giunta nella bambina la convinzione di essere cattiva, poiché non si sentiva felice. Inoltre, la fatica di un viaggio così lungo incominciava a pesarle insopportabilmente. Vana fu la benintenzionata condiscendenza di Sir Thomas, vane le invadenti previsioni di Mrs. Norris, la quale si diceva certa che sarebbe stata una buona bambina. Invano Lady Bertram, sorridendo, la fece sedere vicina sul sofà tra lei e Pug. A recarle conforto riuscì vana perfino la comparsa di una crostata di uva spina. Poté appena inghiottire 2 bocconi prima che le lacrime sgorgassero a interromperla. E poiché era ormai evidente che il sonno doveva essere per lei il miglior amico, fu condotta a letto a consumarvi il suo dolore. «Ah, non è un inizio molto promettente», disse Mrs. Norris dopo che Fanny abbia lasciato la stanza. «Dopo tutto quello che le ho detto durante il viaggio, speravo che si sarebbe comportata meglio. Le ho spiegato che molto dipendeva dal fare buona impressione al primo incontro. Spero proprio che in lei non vi sia una naturale predisposizione all'umor nero. Sua madre, poveretta, ne aveva, e come? Ma dobbiamo cercare di scusarla, non è che una bambina? E non mi sembra che questo suo dolore per aver lasciato casa sua deponga contro di lei, perché, nonostante tutte le inevitabili deficienze, era casa sua». E non può ancora capire quanto abbia cambiato per il meglio, però c'è un limite a tutto. Occorse, tuttavia, un periodo di tempo più lungo di quello che Mrs. Norris sembrava incline a concederle per riconciliare Fanny con la novità della vita a Mansfield Park e con la separazione da tutti quelli alla cui presenza era stata abituata. La sua sensibilità era troppo acuta e troppo poco capita per essere presa in considerazione. Nessuno aveva l'intenzione di mancare di bontà verso di lei, ma nessuno si sforzava di metterla a suo agio. La vacanza concessa il giorno seguente alle signorine Bertram per dar loro tempo di far conoscenza con la cuginetta e intrattenerla non produsse una vera intimità. Le due sorelle non poterono tenere in gran conto la nuova compagna quando scoprirono che possedeva solamente due fusciacche e che non aveva mai studiato il francese, e quando notarono che si era poco interessata al pezzo a quattro mani che avevano avuto la grande bontà di suonare in suo onore, non seppero fare altro che regalarle generosamente i giocattoli ai quali tenevano meno, e abbandonandola a se stessa, si appartarono per darsi a una delle occupazioni preferite del momento, fare fiori artificiali o ritagliare carta dorata. Fanny si trovasse sola o in compagnia delle cugine, fosse in sala da studio, in salotto o nella macchia di arbusti del giardino, si sentiva ugualmente abbandonata. Trovava motivo di temere in ogni luogo alla presenza di chiunque l'avvicinasse. Era scoraggiata dal benevolo silenzio di Lady Bertram, dall'aspetto grave di Sir Thomas e frastornata dalle ammonizioni di Mrs. Norris. Le cugine la mortificavano facendo osservazioni sulla sua bassa statura e la mettevano in imbarazzo facendo commenti sulla sua timidezza. Miss Lee si meravigliava della sua ignoranza e le cameriere arricciavano il naso davanti ai suoi indumenti, e quando a questi motivi di pena si aggiungeva il ricordo dei fratelli e delle sorelle, fra i quali era sempre stata indispensabile come compagna di giochi, governante e bambinaia, lo scoraggiamento che le stringeva il cuore si trasformava in desolazione. La grandiosità della casa la sbalordiva, ma non poteva consolarla. Le stanze erano troppo vaste perché vi si muovesse con disinvoltura. Temeva di danneggiare tutto quanto toccava e si aggirava qua e là quasi furtivamente, costantemente atterrita da questa o quella cosa. Spesso si ritirava nella sua cameretta per piangere, e la bambina, di cui la sera gli altri parlavano in salotto, dopo che si era ritirata per andare a letto, giudicandola soddisfacentemente conscia della sua buona sorte, terminava la giornata singhiozzando finché spossata si addormentava. In questo modo era trascorsa una settimana senza che il suo fare quieto e passivo avesse lasciato trapelare alcun indizio del suo stato d'animo, quando una mattina fu sorpresa da Edmund, il secondo dei suoi cugini, mentre seduta sulle scale che portavano alla mansarda, piangeva in silenzio. «Mia cara cuginetta», disse egli con tutta la gentilezza di un'indole piena di bontà, «che ti è mai successo?» E sedendole accanto si sforzò di vincere la vergogna di lei per essersi lasciata sorprendere così. Stava poco bene? Oppure qualcuno era in collera con lei? O aveva bisticciato con Maria e Giulia? O non capiva qualcosa della lezione che doveva studiare e che lui avrebbe potuto spiegarle? In breve, aveva bisogno di qualcosa che lui potesse darle o fare per lei? Per molto tempo non riuscì a ottenere una risposta, solo dei no, no, assolutamente no, no, grazie. Tuttavia, perseverò e appena prese a rivolgerle domande su casa sua, un'esplosione di singhiozzi gli svelò quale fosse il punto dolente. Edmund tentò di consolarla. Tu sei triste perché hai lasciato la mamma, mia cara piccola Fanny, disse, il che dimostra che sei una brava bambina. Ma devi ricordare che qui sei fra parenti e amici, che tutti ti vogliono bene e desiderano di vederti felice. Vieni, facciamo una passeggiata nel parco e tu mi racconterai tutto dei tuoi fratelli e delle tue sorelle. Nello spingere più a fondo l'indagine, scoprì che per quanto tutti quei fratelli e quelle sorelle le fossero cari, uno più degli altri le era presente alla mente. William era quello di cui parlava di più, che più desiderava avere vicino. William, il fratello maggiore, che aveva un anno più di lei, che era stato il suo costante compagno e amico, il suo difensore presso la madre, della quale era il preferito in ogni difficoltà. A William non era piaciuto che lei andasse via. Le aveva detto che gli sarebbe mancata davvero moltissimo. Ma William ti scriverà, ne sono sicuro. Eh sì, aveva promesso di farlo, ma le aveva detto di scrivere lei per prima. E quando lo farai? Abbassò il capo e rispose: esitando che non lo sapeva, non aveva carta da lettere. Oh, se questa è tutta la tua difficoltà, penserò io a rifornirti di carta e di qualsiasi altro materiale che ti sia necessario e potrai scrivere la tua lettera quando vorrai farlo. Ti farebbe contenta scrivere a William? Oh, sì, molto, per favore. Allora facciamolo subito. Vieni con me nella saletta da colazione, vi troveremo tutto il necessario e saremo sicuri di avere la stanza tutta per noi. Ma, cugino, la lettera partirà con la posta? Sì, fidati di me, partirà insieme alle altre lettere e siccome tuo zio la francherà, William non dovrà pagare niente. Mio zio? Esclamò Fanny con aria spaventata. Sì, quando avrai scritto la lettera la porterò io stesso da mio padre perché la franchi. Fanny pensò che era un gesto molto audace, ma non obiettò altro e così andarono insieme nella saletta della colazione, dove Edmund le preparò il foglio, tracciandovi le righe con tutto lo zelo che ci avrebbe messo il fratello stesso di Fanny e probabilmente con alquanta maggiore esattezza. Rimase con lei per tutto il tempo che impiegò a scrivere la lettera, aiutandola, a seconda dei casi, a temperare la penna o a scegliere l'esatta ortografia. Completò queste premure, alle quali la bambina era stata molto sensibile, con l'aggiunta di un gesto gentile che fece a Fanny più piacere di tutto il resto. Scrisse di suo pugno i suoi saluti più affettuosi per il cugino William e accluse nel plico una mezza guinea. In quell'occasione i sentimenti di Fanny furono tali che non pensava di essere in grado di esternarli, ma l'espressione del viso, le poche semplici parole pronunciate, bastarono a dire pienamente la sua gratitudine e la sua gioia, e il cugino incominciò a pensare che era una bambina interessante. Continuò a parlare e da tutto quanto ella disse, Edmund si convinse che aveva un cuore affettuoso e un grande desiderio di agire rettamente, e inoltre poté rendersi conto che il sentimento che ella aveva della propria incerta situazione e una grande timidezza esigevano ogni riguardo da parte sua e dei suoi. Non si era mai accorto di averle procurato dispiacere, ma ora capiva che Fanny doveva essere avvicinata con più fattiva gentilezza. Perciò, per prima cosa, si adoperò a vincere il timore che ella aveva di tutti loro e soprattutto le diede molti buoni consigli, esortandola a partecipare ai giochi di Maria e di Giulia e a mostrarsi il più lieta possibile. Da quel giorno Fanny si sentì più a suo agio. Sapeva di avere un amico. La bontà che le dimostrava il cugino Edmund la incoraggiò ad essere più disinvolta con tutti gli altri. Il luogo in cui viveva le divenne meno estraneo, i suoi abitanti le sembrarono meno formidabili e, se fra essi ve ne erano alcuni che continuava inevitabilmente a temere, incominciò perlomeno a conoscerne l'abituale comportamento e a capire quale fosse il miglior modo di conformarvisi. Le sue piccole goffaggini, le infrazioni all'etichetta che nei primi tempi avevano penosamente disturbato il ben ordinato ritmo della vita di Mansfield Park, a poco andarono scomparendo e per Fanny non fu più motivo di sgomento il doversi presentare di fronte allo zio, né la voce della zia Norris la fece più trasalire con esagerata violenza. Quanto alle cugine, divenne per loro occasionalmente una compagna bene accetta, seppure a causa dell'età ancora troppo infantile e della sua scarsa resistenza fisica, non poteva prender parte a tutte le attività che esse svolgevano. I loro divertimenti e i loro progetti talvolta erano di natura tale da rendere desiderabile la presenza di una terza persona, tanto più se questa era di natura servizievole e remissiva. Perciò, quando la zia indagava per scoprire le pecche di Fanny, o quando Edmund insisteva sul di lei diritto alla benevolenza, ammettevano di buon grado che Fanny aveva un carattere abbastanza buono. Edmund personalmente non veniva mai meno all'affettuosa gentilezza verso di lei. Da Tom non doveva sopportare altro che quel genere di presa in giro che un giovanetto di 17 anni quasi sempre trova doverosa verso una bambina di 10. Tom stava facendo il suo ingresso nella vita di società e si comportava col brio e con la liberalità di un primogenito che si sente nato solo per spendere e per godere. Il suo comportamento verso la cuginetta era consono alla coscienza della propria situazione, dei propri diritti, le faceva graziosissimi regali e le dava scherzosamente la baia. A mano che nella bambina l'aspetto fisico migliorava e cresceva la sua disinvoltura, Sir Thomas e Mrs. Norris considerarono il loro piano benevolo con maggiore soddisfazione e ammisero ben presto, parlandone insieme, che, benché fosse lungi dall'essere intelligente, la bambina dimostrava un'indole trattabile e probabilmente avrebbe dato loro poche preoccupazioni. Fanny sapeva leggere, scrivere e cucire, ma non le era stato insegnato nulla di più. E siccome le cugine l'avevano trovata all'oscuro di molte cose che erano loro familiari da lungo tempo, la giudicarono straordinariamente stupida e ripetutamente ne comunicarono le deficienze in salotto. «Ma pensi, cara mamma, mia cugina non riesce a mettere insieme la cartina dell'Europa» o «Mia cugina non sa dire i fiumi principali della Russia» o «Non ha mai sentito parlare dell'Asia Minore» o ancora «Non conosce la differenza che passa fra gli acquarelli e le matite». «Che strano, hai mai sentito una cosa più sciocca?» «Mie care», interveniva la zia piena di compunzione. «È un vero guaio, ma non dovete aspettarvi che tutte le ragazzine siano così avanti negli studi e così pronte nell'apprendere come lo siete voi». «Ma zia, è talmente ignorante! Pensi che l'altra sera le abbiamo chiesto che via seguirebbe per recarsi in Irlanda e lei ha detto che farebbe la traversata per l'isola di Wight. Le viene in mente solo l'isola di Wight e la chiama l'isola, come se non ve ne fossero altre al mondo». «Sono certa che mi sarei vergognata di me stessa se non fossi stata meglio informata, assai prima di avere la sua età. Non riesco a ricordare un tempo in cui non sapevo una quantità di cose delle quali lei non ha ancora la minima nozione. Quanto tempo fa, zia, sapevamo già ripetere in ordine cronologico l'elenco dei re d'Inghilterra, con la data della loro ascesa al trono e quella degli avvenimenti principali dei loro regni». «Sì», aggiunse l'altra, «e quelle degli imperatori romani, giù fino a Severo. Inoltre sapevamo tante cose sulla mitologia pagana e su tutti i metalli e i metalloidi e i pianeti e i nomi dei filosofi famosi». «Verissimo, mia cara, ma voi due godete la benedizione di una memoria meravigliosa e la vostra povera cugina probabilmente non ne ha appunta. Vi è un'enorme differenza tra memoria e memoria, come in ogni altra cosa. Perciò dovete concedere delle attenuanti a vostra cugina e compatirla per le sue deficienze e ricordate che essendo così progredite negli studi e così intelligenti, dovrete essere sempre modeste, poiché per quante siano le cose che già sapete, ve ne rimangono molte altre da imparare». «Sì, so che ce ne saranno finché non arriverò ai 17 anni, ma le devo dire un'altra cosa sul conto di Fanny, così strana e così sciocca. Pensi che dice di non voler imparare né la musica né il disegno». «Oh, certamente, mia cara, questa è una vera sciocchezza da parte sua e dimostra una grave mancanza di ingegno e di spirito di emulazione. Ma tutto considerato, non so se sia meglio così, poiché, sapete, sebbene, grazie al mio intervento, il vostro papà e la vostra mamma siano stati tanto buoni da prendersi l'impegno di educarla insieme con voi, non è assolutamente necessario che ella diventi altrettanto compita, al contrario, è assai più auspicabile che fra lei e voi ci sia una differenza». Questi erano i ragionamenti con i quali Mrs. Norris contribuiva alla formazione delle nipoti e non farà meraviglia se, nonostante tutto il loro promettente talento e la loro precoce informazione, le due ragazzine fossero interamente deficienti nella meno facile acquisizione dell'autocoscienza, dell'umiltà e della generosità. Ricevevano un perfetto insegnamento in ogni cosa, eccettuate quelle che interessano la formazione del carattere. Sir Thomas non era a conoscenza di quel che mancava loro perché, pur essendo un padre pieno di sollecitudine per il bene delle figliole, non dimostrava apertamente l'affetto che provava per loro. E il suo atteggiamento riservato reprimeva in sua presenza ogni slancio, ogni spontaneità delle ragazzine. All'educazione delle figlie Lady Bertram non prestava che ben poca attenzione, non aveva tempo per impegni del genere. Trascorreva le giornate seduta su un sofà, elegantemente vestita, intenta a un qualche lavoro d'ago di poca utilità e di nessuna bellezza, pensando più al cagnolino che ai figli, ma piena di indulgenza nei loro riguardi quando non gliene derivava alcun fastidio, guidata in ogni decisione importante da Sir Thomas e nelle cose di minor conto dalla sorella. se anche si fosse resa conto di avere più tempo a disposizione da dedicare alle ragazze, avrebbe probabilmente pensato che non era necessario occuparsene, poiché erano affidate a una istitutrice, ricevevano lezioni da professori qualificati e dunque non poteva occorrere loro nient'altro. Quanto al fatto che Fanny fosse lenta nell'apprendere, poteva solo dire che la cosa era spiacevole, ma certe persone sono tarde, per cui la bambina doveva applicarsi di più, non vedeva cos'altro si potesse fare. E all'infuori del fatto che era tanto limitata, doveva dire che lei non vedeva altri difetti in quella povera piccola e che se la trovava sempre a portata di voce, pronta a fare le sue ambasciate, ad andare a prendere quel che a lei occorreva. Fanny, con tutte le pecche della sua ignoranza e timidezza, aveva messo radice a Mansfield Park. E avendo a poco imparato a trasferirvi molto dell'affetto nutrito un tempo per la casa paterna, cresceva serenamente nella nuova dimora insieme alle cugine. Non vi era vera cattiveria nell'indole di Maria e di Giulia e, benché Fanny fosse a volte mortificata dal modo in cui esse la trattavano, aveva un concetto troppo umile di quanto le spettava per sentirsene offesa. Poco prima che la nipotina facesse il suo ingresso nella cerchia familiare, una leggera alterazione del suo stato di salute e soprattutto la sua indolenza avevano indotto Lady Bertram a rinunciare alla casa di Londra, che era stata solita occupare in primavera, e a decidere di restare tutto l'anno in campagna, senza preoccuparsi se in seguito alla sua assenza la permanenza in città sarebbe riuscita più o meno comoda a Sir Thomas quando vi soggiornava a causa dei suoi impegni parlamentari. Le signorine Bertram rimasero dunque in campagna, dove continuarono a esercitare la memoria e a perfezionare le loro suonate a quattro mani, a crescere e a farsi donne. E il padre, soddisfatto, le vedeva compite nella persona, nel portamento, nei modi, nei talenti acquisiti, cioè in ogni cosa che appagava la sua sollecitudine nei loro riguardi. Il figlio maggiore era spensierato e spendaccione, e gli aveva procurato già non poche preoccupazioni, ma gli altri gli promettevano solo soddisfazioni. Le figlie, pensava, finché avessero conservato il cognome di Bertram, gli avrebbero conferito nuova grazia e quando poi l'avessero lasciato, avrebbero senza dubbio contribuito ad allargare la cerchia rispettabile delle parentele. Il carattere di Edmund, il suo saldo buonsenso, la sua rettitudine garantivano un'utile occupazione, il conseguimento di debiti onori e la felicità per lui e i familiari. Era destinato ad abbracciare la carriera ecclesiastica. Pur in mezzo alle sollecitudini e alle soddisfazioni che i suoi figlioli gli procuravano, Sir Thomas non dimenticava di fare quanto poteva per quelli di Mrs. Price. Li assisteva liberalmente nel proseguimento degli studi e si interessava alla collocazione dei maschi a mano che giungevano in età di scegliere una determinata carriera e Fanny, benché quasi totalmente avulsa dalla famiglia di origine, provava la più sincera soddisfazione nell'apprendere la bontà dello zio verso i suoi e nel sapere tutto quanto vi era di promettente nella loro attuale situazione e nel loro modo di comportarsi. Una volta, e una volta sola nel corso di lunghissimi anni, ebbe la felicità di incontrarsi con William. Quanto agli altri, non li vide affatto. Nessuno sembrava pensare che un giorno lei dovesse ritrovarsi nuovamente fra loro, fosse pure per una semplice visita. Nessuno a casa la desiderava. Ma William, che poco tempo dopo la partenza di Fanny aveva deciso di entrare nella marina da guerra, era stato invitato a trascorrere una settimana nel Northamptonshire in compagnia della sorella prima di prendere il mare. Lo slancio e l'affetto di quell'incontro, l'intensa gioia provata nel trovarsi riuniti, le ore di felice gaiezza trascorse insieme e i momenti di serie conversazioni che si svolsero fra loro si possono immaginare facilmente, come pure le ottimistiche aspettative e l'entusiasmo manifestato dal ragazzo fino al momento della separazione, e il dolore della sorella nel vederlo partire. Per fortuna, quella visita coincise con le vacanze di Natale, quando a Fanny fu possibile cercare diretto conforto presso il cugino Edmund. E questi le disse cose così piacevoli su quanto William avrebbe operato e poi sarebbe diventato, grazie alla professione prescelta, da convincerla poco a poco che la separazione valeva bene la spesa. L'amicizia di Edmund non le venne mai meno. Il passaggio da Eton a Oxford non alterò la naturale gentilezza del suo comportamento, anzi gli fornì più frequenti opportunità di manifestarla. Senza ostentare di fare più degli altri membri della famiglia o il timore di strafare, era sempre sollecito dell'interesse della cugina e pieno di considerazione per i sentimenti di lei. Tentava di mettere in luce le sue qualità, l'aiutava a vincere la ritrosia che le impediva di farle valere, le prodigava consigli, consolazione e incoraggiamento. Tenuta indietro com'era da tutti gli altri, il solo sostegno di Edmund non poteva bastare a metterla in evidenza, ma anche sotto altri aspetti le sue attenzioni erano della massima importanza per coltivare l'intelletto della fanciulla o per ampliarne gli interessi. La sapeva intelligente, vedeva che afferrava prontamente i concetti, che era dotata di buon senso e constatava in lei un amore per la lettura che, saggiamente guidato, era di per sé formativo. Miss Lee le insegnava il francese e ogni giorno l'ascoltava leggere il brano di storia assegnato, ma era lui che le indicava i libri che incantavano le sue ore di libertà, lui che ne incoraggiava il gusto e ne correggeva il giudizio. Le faceva approfondire quanto leggeva parlandone con lei e con lodi giudiziose ne stimolava l'attrattiva di quell'esercizio. In cambio di questa sollecitudine, Fanny gli voleva più bene che a chiunque altro al mondo, William eccettuato. Il suo cuore era diviso in parti uguali fra i due.